tanto. Anni di ribelli, anni di terre, anni di guerre, ribellione di contadini, famiglie patriarcali e rivolta, oppressione padronale, oppressione universale, anni di sangue, anni di complotti, anni di riscatto, anni di ribelli. Finalmente nacque la Lega Catadina, gridavano sciopero e il fascismo nasceva come difesa, un vuoto in mare, fuoco libero, fuoco ardente, lo fili di rabbia innescavano la rivolta, ribellione proletaria. E lo sanci male, e lo sanci male, e lo sanci male, e lo sanci male, di una classe oppressa, di una classe naturale, di una classe libera. E la ribellione arde, e la ribellione arde, proletare e rivolta. Anni sacri, anni sacri per la libertà, anni sacri per la libertà. 1900 anni di libertà, 1900 anni di libertà, 1900 anni di libertà, libertà, libertà, libertà. 1900 anni di libertà, libertà, libertà, libertà, libertà.